Letture di Radio 24. Sono 426 i ragazzi tra i 14 e i 18 anni reclusi negli istituti di pena minorili per i quali si scelgono provvedimenti alternativi alla pena o al processo. Tra questi c'è la cosiddetta messa alla prova, che consiste in vari percorsi di formazione, studio e lavoro. Sarà possibile percorrere con maggiore frequenza questa via? Sono contento che si cominci a parlare in termini concreti e legislativi di recupero dei minori in strutture più rieducative e meno carcerarie. Nelle carceri minorili la fatica del recupero integrale è evidente e supera di molto la visione repressiva che trionfa nelle patrie galere per adulti. C'è però un vizio di fondo che inficia i risultati. È l'ambiente. Nutro certamente preconcetti gratuiti, ingiusti e poco verificabili. La mia storia, non semplice e non breve, dice che certe etichette appioppate a persone e a istituzioni sono più pesanti di ogni innovazione e trasformazione. Tempo fa ho consigliato di abolire anche i seminari minori per seguire e formare i giovani da casa, richiamandoli per brevi periodi intensi, contemplativi e selettivi. E anche lì ho ricevuto grandi botte in testa. Pazienza. L'opinione pubblica grezza, però, non fa tante distinzioni di sfumature. Per esempio, io faccio una fatica enorme per smontare le paure che i genitori hanno rispetto alle comunità terapeutiche. La nostra società ha spinto e molto su una visione autoritaria e indiscriminatamente punitiva delle comunità. E non ci sono santi, direbbero i nostri nonni, che possano ridurre o correggere queste maldestre convinzioni. Solo l'atmosfera serena, la sparizione delle etichette, l'autorevolezza e la paziente cucitura del tessuto affettivo permette una ricostruita identificazione di sé e una miracolosa ripresa del cammino futuro anche dei ragazzi più difficili, non sulle ceneri dei passati errori, ma sulle potenti leve di una rinnovata motivazione. Non va trascurata una formazione degli educatori molto diversa, meno formale e centrata su una rilettura dei fatti e degli avvenimenti. Mai, come in questi casi, il passato metabolizzato in termini positivi permette progetti nuovi sul futuro. Nessuno però ci ha aiutato a scovare dentro la nostra e altrui vita le enormi ricchezze sepolte ma non cancellate dalle tragedie o dagli errori. Anche noi educatori siamo figli delle teorie, delle ricette illuministe, della scuola di pensiero specializzata nell'interpretare la parte peggiore delle persone e mai la migliore. Sono ancora più contento che i dati delle ricerche mostrino una decrescita dei reati e una diminuzione dei ragazzi rinchiusi. La fatica più vera e più lunga da interpretare, però, è la vittoria sulla discriminazione. Perché, dice il presidente di Antigone, la discriminazione nei confronti di queste fasce di minori rende poco efficaci tutte le opportunità di integrazione e un accesso più massiccio alla decarcerizzazione. La nostra coscienza civile ci obbliga a non desistere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Carcere minorile, molto da ripensare, pubblicato da Famiglia Cristiana di venerdì 10 aprile, a firma di Antonio Mazzi. Letture di Radio 24. Un gruppo di biologi dell'istituto giapponese Riken, partendo da cellule staminali di un embrione di topo, è riuscito a farle specializzare in cellule della retina. La nota rivista scientifica Nature si è lasciata andare questa volta a un titolo sensazionalistico: Costruire occhi. Ma sarà davvero così? Costruire occhi. Questa volta anche Nature si è lasciata tentare dal titolo sensazionale. Costruire occhi, si legge a caratteri cubitali sulla copertina del numero oggi in edicola della più prestigiosa rivista scientifica. Accanto c'è la foto di un sacchetto verde ripiegato su se stesso. Quel sacchetto è una retina, la parte dell'occhio sensibile alla luce. Non ancora la retina di un occhio umano, ma quella di un topo. Dal punto di vista scientifico, però, il risultato è clamoroso. il gruppo di biologi dell'istituto giapponese Riken, guidato da Yoshiki Sasai, partendo da cellule staminali di un embrione di topo, è riuscito a farle specializzare in cellule della retina. E cosa ancora più straordinaria, tanto che lo stesso Sasai ne è sorpreso, queste cellule si sono auto-organizzate e hanno formato il sacchetto retinico come sotto la guida di una misteriosa ma perfetta regia biologica. Le cellule staminali e embrionali sono totipotenti, cioè capaci di trasformarsi in qualsiasi tipo di tessuto: pelle, ossa, cellule nervose o muscolari, del fegato, del pancreas e di qualsiasi altro organo. Il problema è avviare in esse il processo di specializzazione in un tessuto o nell'altro, cosa che i biologi fanno stimolandole con speciali fattori biologici che inducono nei loro geni le trasformazioni desiderate. È ciò che il gruppo giapponese è riuscito a fare. Non solo, sono anche riusciti a ottenere nel caso specifico un tessuto che ha assunto la struttura dell'organo che nell'individuo sviluppato quelle cellule vanno a formare, in questo caso la retina. È la promessa della medicina rigenerativa, il sogno alla Blade Runner degli organi in provetta, che si realizza. La retina è in pratica una parte del cervello che si è adattata per trasformare le onde luminose in segnali elettrici. Le cellule nell'occhio umano sono di due tipi: i bastoncelli, molto sensibili e numerosi, 100 milioni, ma capaci solo di vedere in bianco e nero, e i coni, poco sensibili e in numero ridotto, 7 milioni, ma in grado di darci la visione a colori. I segnali elettrici generati da queste cellule come reazione alla luce vengono poi convogliati nel milione di fibre del nervo ottico fino alla zona occipitale del cervello, dove l'immagine viene ricostruita. La retina è dunque la parte più delicata e importante dell'occhio. Corrisponde alla pellicola fotografica o, nelle camere attuali, al sensore elettronico. Bisogna però aggiungere due precisazioni. La prima è che ciò che funziona sui topi di laboratorio è lontano dal funzionare nell'uomo. Il progresso annunciato da Nature è scientificamente di prim'ordine, ma non deve illudere i non vedenti. La soluzione del loro problema non è affatto a portata di mano. Dalle staminali dell'embrione di topo non si ricava una retina umana. Ci vorranno anni, forse alcuni decenni, perché un processo del genere si possa realizzare nell'uomo. La seconda precisazione riguarda in particolare il nostro paese. In Italia, diversamente da quanto accade in quasi tutti i paesi avanzati del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, al Regno Unito fino alla Corea, se anche si riuscisse tecnicamente a fare ciò che per ora è di là da venire, dal punto di vista legale sarebbe impossibile, perché la legge italiana impedisce la ricerca sulle cellule staminali umane, e ciò in quanto il ricorso a queste cellule comporterebbe la distruzione dell'embrione, cioè di una creatura umana potenziale. Cosa che il cardinale Helios Greccia, bioeticista del Vaticano, ha subito ricordato commentando la notizia di Nature in contrapposizione con l'entusiasmo del premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco e dell'onorevole Ignazio Marino. In Italia si incoraggia invece la ricerca sulle cellule staminali adulte, che in questo caso dovrebbero essere estratte dalla retina dello stesso paziente. Per la cornea lo si fa già con successo, ma nel caso della retina si aggiungerebbe difficoltà a difficoltà. Il messaggio che viene dal Giappone è comunque chiaro e importante. Le cellule staminali embrionali aprono opportunità eccezionali e non comparabili con le opportunità delle staminali adulte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Speranze e cautele per l'occhio in provetta di Piero Bianucci, dalla Stampa di giovedì 7 aprile. Quando qualcuno difende con passione la manutenzione di uno stato di cose, a discapito della modernizzazione, spesso viene tacciato di essere reazionario. È capitato a un recente convegno sulla lingua italiana a Lidia Ravera, come in tante altre occasioni ad altri intellettuali ritenuti di sinistra. Al convegno dell'Istituto di Cultura di Zurigo sulla lingua italiana, la scrittrice Lidia Ravera ha difeso con passione le ragioni della scrittura, la manutenzione amorevole della lingua, la dedizione alla parola come disciplina interiore, contro le invasive gergalità del presente. Renato Barilli, presente al convegno, ha voluto per questo tacciarla di reazionaria, dopo un attimo di spaesamento per l'uso di una categoria così ideologicamente connotata in cose letterarie. Mi sono persuaso che la definizione fosse tecnicamente esatta. In che senso? Sempre più sul piano culturale, e non soltanto, destra e sinistra sembrano scambiarsi le parti. La sinistra, di fronte a una modernità che giudica profondamente distorta, assume volentieri posizioni conservatrici e finanche reazionarie. E così Lidia Ravera ha elogiato coerentemente la lingua scritta, più meditata e durevole, dai tempi lenti, capace di dare ordine al caos e di incidere sul rapporto tra noi e la realtà, rispetto all'effimera lingua parlata del talk show, dove in un certo senso chiunque è sconfitto, e anche a quella lingua parlata mascherata da lingua scritta di blog e newsgroup, estemporanea, veloce, sintatticamente approssimativa. Anche Pasolini era accusato spesso di essere reazionario, poiché intendeva reagire a uno sviluppo che secondo lui non coincideva più con un auspicabile progresso e, ad esempio, aveva nostalgia non certo del fascismo, ma di ciò che il fascismo non era riuscito a contaminare. La tecnologia e il nuovo non vanno accettati acriticamente. Benché Marx celebrasse le magnifiche sorti del capitalismo, che ci avrebbe liberato da ogni legame, oggi la sinistra può anche riacquistare il gusto di essere un po' reazionaria e dunque cercare non nel futuro, ma proprio nel passato, un'idea di verità, di umano, di bellezza, che la attuale modernizzazione tende a negare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il gusto di essere un po' reazionari quando la sinistra fa la destra, dal Corriere della Sera di mercoledì 6 aprile.